solare. A te, mia fanciulla, notte stellare. A te, mia stella, tu che sai cambiare questo inferno in paradiso, tu che sai vedere oltre l'infinito, tu che porgi sguardo sopra un fiore appassito, notte di girasoli, a te mio sorriso, notte solare, a te mia farfalla, notte d'amore, che sia favola mia bella, tu che conosci a memoria tutte le strade che portano a Roma, tu che non dici mai parola, ma il tuo cuore brilla, signora, tu che il campeggio lo fai ogni giorno e vai in vacanza sempre col vento, notte solare ai tuoi occhi, per te la luna e tutti i suoi specchi. Notte solare, solare, solare.